EIAR, Ente Italiano Audizioni Radiofoniche. Dagli studi di Radio 24 in Milano trasmettiamo ora la trasmissione 1, nessuno 100 Milan. Ascoltatela, è una trasmissione italianissima. Uno, nessuno, 100 Milan, di Alessandro Milan, con Leonardo Manera. Eccoci qui cari ascoltatori, effettivamente questa è una delle presigle a cui sono più affezionato, è molto simpatica, molto molto ben confezionata. Siamo qui in questo venerdì 8 maggio a concludere una settimana di Uno Nessuno 100 Milan, fino alle 11 con voi. Saluto subito Peter Bescapè, il nostro alpino, è tornato in regia, a fianco a te c'è anche Laura Faggin, che ringrazio, la nostra redazione, da Lorenzo Nespoli, Miriam Lucchetti, Elisabetta Fusconi, ci siamo tutti, e c'è anche Mario Calabresi, signori, eccolo qua, il buongiorno. compagno generale. Calabresi, bolscevico! Ecco, vabbè, dai, grazie, dobbiamo aggiornarci grazie, però, domani. Invito gli ascoltatori a rinnovare un po', perché questo Calabresi bolscevico, potete mandare audio, magari, non so, sbizzarritevi un po' di più, insomma, andate avanti con la fantasia. Non sappiamo più come usare solo questo, Mario, è un po' troppo, insomma. Esatto, è riduttivo, no? Ma poi forse non tutti si ricordano come è iniziato che io ti dicevo bolscevico, sì, facendo esatto, l'imitazione di quella voce, e allora adesso me l'avete fatta anche a me. Certo, me l'avete fatta sempre gli ascoltatori, noi non c'entriamo nulla, non lanciare sì, sospetti e secondo complotti. Secondo me, io penso che quel signore sta lì nei sotterranei di via Monterosa della radio. E lo usiamo per tutte le voci, per tutte... Esatto, sì, esatto. Sì. Schiavizzato e ammanettato. No, sono cari ascoltatori affezionati. Tra l'altro, devo dire, oggi non ci sarà Vestagliona Manera, Leonardo Manera. D'altronde l'altro giorno ha lavorato dalle 9:15, quindi adesso ha chiesto al direttore personale di essere sentato per un giorno, ma tornerà con noi lunedì. Vai Alpino, che abbiamo tante cose da raccontare, eh? Enthusiasm about the future. Allora, caro Mario, a me ci sono due cose che hanno un pochino disturbato, te le vorrei sottoporre. La prima sono alcune foto che ritraggono la nostra amata Milano in orario Navigli, in orario aperitivo, zona Navigli soprattutto, ma si potrebbero prendere anche zona Parchi, cioè le sì, persone così amabilmente, evidentemente con un bel liberi tutti, a farsi l'aperitivo da sporto, per carità, ma chiaramente lì non ci sono le condizioni di rispetto di distanza, di no assembramenti sociali, cioè, attenzione, non so, ti hanno disturbato, Mario? Io dico attenzione. Anche a me. Diciamo così, abbiamo riconquistato un pezzetto di libertà, si può uscire, ecco, si può camminare, ci sono appunto dei luoghi aperti, esatto, e però c'è una regola, la mascherina. Ieri mi è capitato, sono passato attraverso il Parco Solari, di vedere queste persone che stanno al parco a chiacchierare con cani o con chi ha i bambini, eccetera eccetera, con la mascherina ma abbassata, che la mascherina abbassata è un nuovo simbolo. Come non averla. Oppure sì, tenuta su un orecchio. È come dire, no, io ce l'ho, però poi faccio come mi pare. E non si capisce perché. Perché con la mascherina abbassata? Perché questo sì, senso di... È finita. Auguriamoci, magari la natura, che è stata tanto crudele in questi mesi, adesso migliora la nostra condizione e ci perdona queste cose e andiamo verso un'estate più serena. Ma perché dobbiamo andare a cercarcela? Perché poi comunque sia, dici, sai, siamo a mortalità zero e contagi zero, ma la mortalità è ancora nell'ordine delle centinaia ogni giorno. Centinaia sì, sì, ogni giorno. Sì, ma soprattutto... Quando a un certo punto si è detto, non ci sono morti. Beh, oggi non ci sono morti. Non so chi ha scritto. Oggi ci sono stati i morti della strage di Bologna, della strage di Piazza Fontana, della strage di Piazza della Loggia, messi tutti assieme. Allora, certo. Di cosa stiamo parlando? E questa cosa qua io ci trovo dentro un'arroganza e anche una cosa verso gli altri di non rispetto. Sì, devo dire che io ho sempre detto che gli italiani si sono comportati bene e lo ribadisco nella stragrande maggioranza, però insomma, attenzione, no? Il professor Galli ha detto: guardate che Milano è un po' una, ha usato questa espressione, una bomba, cioè ci sono tante persone che se vanno in giro così rischiamo tra 14 giorni, perché ormai abbiamo imparato che ci vuole un po' di tempo per capire. Mi sono trattenuto di fare quello che dice, scusi, la mascherina, perché stupendo, sarebbe stato stupendo, dovevi riprenderti. Però ti devo dovevi dirti, anche riprenderti. Ho resistito un pomeriggio, ma da oggi mi parte l'acceleratore. Le risse di Mario Calabresi, il compagno generale va nei parchi a fare le risse. Ti prego, riprenditi con un telefonino, perché così mandiamo in onda l'audio. No, c'è un'altra cosa che un pochino mi ha disturbato, meglio una domanda che io ho fatto. Questo pasticcio, l'ha definito così Sileri, credo, pasticcio delle mascherine. Ma io dico, ma se uno Stato, lo Stato attraverso un'istituzione, il commissario Arcuri, dice dal 4 maggio mascherine a 50 centesimi più IVA, e qui si potrebbe anche aprire la questione che era stato detto senza IVA, invece ha messo l'IVA al 22%, cioè uno si aspetta che da lunedì 4 maggio, entrando in farmacia, si possa comprare la mascherina a 61 centesimi, e invece tu ne hai trovate, cioè sono introvabili. Sì, te lo do da un punto di vista di un farmacista, compagno mio di banco al liceo, il quale mi dice: io ho comprato un quantitativo di mascherine importante a 90 centesimi. Sì. E mettici l'IVA e fa 1,0x, dovremmo calcolare quant'è con l'IVA. E lui dice: poi dovrei guadagnarci qualcosa, perché non è che io faccio della beneficenza, non sono un distributore. Certo, e certo. Dice: io però adesso queste mascherine o le vendo regala in perdita, perdendoci almeno 60 centesimi a mascherina, quindi alla metà di quello che mi sono costate, oppure non le vendo. E se le vendo al prezzo loro, a uno e anche soltanto al prezzo di costo, vengo sanzionato. Cioè, allora, il punto è, tu questa cosa qua la puoi fare da un X in poi, facendo fare le scorte, oppure dici, tutti quelli che le hanno pagate di più e mostrano la fattura di quanto le hanno pagate, vengono rimborsati di quella cifra, perché è lo Stato che decide che costano 50 centesimi, la differenza lo deve mettere lo Stato. Certo. Allora, no, ma effettivamente qui c'è anche molto dibattuto. Infatti è più difficile trovare le mascherine questa settimana che la settimana prima. Sì, è vero, è vero. Si è dibattuto molto anche tra statalisti, liberisti. Arcuri se l'è presa con l'ormai celeberrimo i liberisti con l'aperitivo in mano, che contestano questa idea della domanda e dell'offerta, come se io non la conoscessi. La conosce benissimo il commissario Arcuri. Però certo, è incredibile che il cittadino non trovi le mascherine, ecco. L'importante è trovarla, e da questo punto di vista, che su un bene che tutti devono avere, indispensabile primario, diciamo che sono come i libri di scuola della prima elementare. L'abbecedario. Ci sono i rimborsi, le cedole, ti ricordi le famose cedole con cui si andavano a ritirare i libri? Non so se esistono più sotto quella forma. Però ci sono una serie di cose su cui a me non scandalizza mica il fatto che lo Stato dica questi beni primari. C'è anche il prezzo fissato per il pane comune, o per il latte. Su alcune cose ci può essere benissimo. Il problema poi è far sì che il meccanismo funzioni, perché se tu hai fatto i farmacisti le hanno pagate un euro e le devono vendere a 50 centesimi, allora la frittata è fatta, perché la gente non le trova più. Allora, però, Mario Calabresi, che non sa, tra l'altro, ma oggi starà con noi fino alle 10, così, sei stato... Perché il tuo vestaglione non c'è, quindi sono il vice vestaglione. No, non per quello. Dopo vestaglione maniera, vestaglietta Calabresi, è così? No, assolutamente no, assolutamente no. Però c'è la nostra prima ospite. Dunque, io già due giorni fa ho parlato, anche ieri, di plasmaterapia. Da un punto di vista... ignorante dal mio punto di vista, ma vogliamo ascoltare, perché tanto si sta discutendo, e vogliamo ringraziare Giustina De Silvestro, che è la direttrice dell'unità operativa immunotrasfusionale all'azienda ospedaliera di Padova. Buongiorno professoressa De Silvestro. Buongiorno a lei e al suo ospite. Grazie di essere qui, perché si sente molto dire, molto parlare. Ecco, diciamo subito, i litigi su una terapia danno fastidio. Si parlava con Mario Calabresi che ci sono forse solo in Italia questo tipo di polemiche. Quindi le vogliamo derubricare e mettere da parte, De Silvestro, queste polemiche che ci sono? Assolutamente, credo che soprattutto in un'esperienza come questa, in cui ancora si sa troppo poco, qualsiasi contributo con qualsiasi farmaco sia utile, quindi credo che ci sia spazio per tutti per poter provare dei farmaci, ovviamente su presupposti di efficacia di partenza, e poi anche per poter vedere quali di questi o quanti di questi assieme possono determinare un'evoluzione più benigna di questa malattia. Ci dica a Padova come va, perché l'abbiamo spiegato, insomma, curare i pazienti con il plasma di coloro che hanno già sviluppato la malattia e quindi superimmuni, che hanno gli anticorpi. A Padova cosa fate? A Padova siamo partiti con questo protocollo, che è analogo a quelli che si stanno applicando in altri pochi centri ancora in Italia. Sì, Pavia e Mantova. Pavia e Mantova, e credo sia partito Pisa. E si basa sul presupposto che appunto i pazienti che hanno avuto la malattia sviluppano anticorpi. Questo è un presupposto assolutamente noto nell'ambito clinico e immunologico. Quello che siamo andati a vedere, a verificare, è se questi anticorpi sono effettivamente in grado di bloccare l'infezione, cioè di bloccare l'azione del virus. Quei soggetti donatori che hanno un elevato titolo di anticorpi, cioè una quantità sufficiente per fare una terapia efficace, sono stati arruolati come donatori per poter donare il loro plasma, e questo plasma noi lo andiamo a somministrare ai pazienti. Non tutti i pazienti, soltanto quei pazienti che si trovano in una situazione più critica e sono a rischio di un'evoluzione più grave, e con il rischio anche di poter entrare in una terapia intensiva, che è quello che vorremmo evitare. Sì, certo. I primi dati, perché lei ha detto ancora non ci sono, i primi dati sono confortanti, almeno sui risultati? L'impressione soggettiva e reale, anche nel senso della verifica del decorso clinico, è confortante. È chiaro che, come in tutte le terapie, farmaci compresi, per dimostrare che il farmaco o qualsiasi terapia sia effettivamente efficace, abbiamo bisogno di grandi numeri. E questo è il limite di questo tipo di azione che stiamo facendo, perché essendo arrivati in coda di epidemia, noi e anche Pavia, perché Pavia ha 40 casi, noi ne abbiamo meno, sono numeri ancora troppo piccoli. Troppo piccoli. Quello Mario, che si vorrà fare... Sì. Diceva quello che si vorrà fare? Prego. Quello che si vorrà fare in questo momento e su cui stiamo organizzando è di preparare, in questo periodo in cui c'è una grande numerosità di persone che sono guarite, che fortunatamente si sono rese disponibili, fare una scorta di plasma pronto per l'uso. Molti donatori, addirittura il prodotto, perché questo è il momento migliore per raccogliere il plasma, perché è il momento in cui il titolo anticorpale è più elevato. Prego, professoressa, volevo chiedere, ma qua, più o meno sul vostro campione, quanti sono i guariti che hanno un numero di anticorpi importante, quindi utilizzabile per questo? Sono tutti o solo una parte sono in questa situazione? Non tutti, tra i donatori che noi abbiamo arruolato, che vuol dire già avere fatto uno screening ampio della popolazione di guariti, per motivi di età, per motivi di salute, di patologie concomitanti, quindi secondo le regole della medicina trasfusionale, tra quelli arruolati, che non sono più del 50%, 60% dei guariti, noi abbiamo un 30% di persone che non sviluppano un titolo molto elevato. Anche su questi stiamo studiando, perché come avete sentito parlare in queste settimane, anche il dosaggio sierologico, cioè la ricerca degli anticorpi, pone qualche problema. e quindi stiamo studiando la cinetica anche di questi anticorpi e il comportamento a seconda delle tappe della malattia e della guarigione. Prima stava donatori, dicendo, professoressa, nel caso di recrudescenza della malattia, ecco, questo cosa succederà? Nel caso di recrudescenza, questa volta saremo pronti molto più precocemente, nel senso che fin dall'inizio avremo la disponibilità di questo prodotto. Se a quel momento, se qualora ci fosse, e speriamo tutti di no, ma qualora ci fosse una recrudescenza e in quel momento non abbiamo ancora farmaci assolutamente efficaci che si siano dimostrati tali, potremmo contribuire in maniera molto più precoce e molto più massiva rispetto a quello che siamo riusciti a fare finora. Sì. Io ho messo un po' da parte le polemiche, anche se Mario, discutevamo prima della trasmissione, a dire solo in Italia succedono queste polemiche. Sì, trovo molto importante come la dottoressa ci sta spiegando le cose e le sta spiegando a tutti come un pezzo di un percorso, senza automatismi, senza c'è una cosa giusta e una sbagliata, perché appunto saranno delle somme di cure, e non è che una cura allora vuol dire che l'altra è una è buona e l'altra è cattiva, un esperimento è buono e l'altro è cattivo, oppure che la cura allora significa che è inutile il vaccino. Sono tutti strumenti anche con cose diverse. La cura è per chi si ammala, il vaccino è per evitare che ci si ammali. E quindi, secondo me, io la ringrazio perché lei lo sta facendo in questo modo in cui tutti stiamo capendo, anche noi che non ne sappiamo nulla. Esatto, no, ma questa è molto interessante. Mentre una cosa che non si può vedere sono questi dibattiti che ci sono in corso, in giro, sui social, in televisione, sui giornali, tra sempre Guelfi e Ghibellini, in cui sembra sempre che ma perché la cura esiste, è a Pavia e a Mantova, ma non ce lo vogliono dire perché gli interessi sono altri, oppure quelli sono buoni, quelli sono cattivi, per cui c'è il medico di destra e quello di sinistra, che sono delle cose che sono deliranti, quando invece o qui c'è uno sforzo comune oppure non si va da nessuna parte. Esatto, è proprio così, è proprio così. Credo che proprio la condivisione dei dati sarà l'elemento che ci farà capire tutti assieme e portare avanti tutti assieme per l'unico obiettivo, che è quello di sconfiggere questa malattia. Sì, anche perché, professoressa De Silvestro, il vaccino, l'abbiamo detto mille volte, quando ci sarà, serve a prevenire l'insorgenza della malattia. Sono mentre meccanismi completamente diversi, sono meccanismi completamente per i malati. Parliamo in entrambi i casi, sia nella terapia con plasma, sia nella prevenzione della malattia con il vaccino, parliamo di un meccanismo immunitario, cioè dell'utilizzo degli anticorpi. Nel senso che però, quando noi andiamo a somministrare il plasma, forniamo un po' di anticorpi prodotti da un altro paziente per aiutare il malato in quella fase più critica in cui non riesce da solo a produrne sufficienza. Il vaccino che cosa fa? Il vaccino stimola il soggetto che si sottopone alla vaccinazione a produrre da solo quegli anticorpi, in maniera tale che nel momento in cui dovesse venire a contatto con la malattia sarà già in grado di produrre da solo e di rispondere e quindi di non ammalarsi. Sono due meccanismi completamente diversi. E non da mettere in antitesi con le polemiche. Ovviamente, professoressa, ci sono molte domande. C'è chi dice la sicurezza, ovviamente si tratta di plasma, quindi una parte del sangue. Chi ricorda che ci sono stati in passato degli errori, degli scandali. Come la mettiamo dal punto di vista della sicurezza, del controllo, della gestione? Allora, la terapia trasfusionale di tutti i giorni, voi sapete che sangue, plasma, piastrine vengono utilizzate per tantissime patologie, ha raggiunto oggi un livello di sicurezza altissimo. Non solo, ma in questi donatori in particolare, a questo livello di sicurezza si aggiunge un livello ancora maggiore, proprio perché, considerando che comunque noi dobbiamo considerare pazienti fino a poco prima, e quindi non perfettamente sani fino a poco prima, tutto quello che viene fatto serve proprio per raggiungere un livello altissimo di sicurezza. Io credo che nessun'altra terapia possa sia così sicura. Va bene, noi la ringraziamo molto, professoressa Giustina De Silvestro, ripeto, dirige l'unità operativa immunotrasfusionale all'Università di Padova, all'azienda ospedaliera. Mario, mi sembra che sia stata chiarissima, sì, grazie, nello spiegare questa terapia, anche con tutti i suoi dubbi. Questi 10 minuti che nell'ultimo mese. Sì, esatto, perché voglio dire, se si parte subito da posizioni, quella migliore è: non ce la vogliono dire perché così Bill Gates guadagna coi vaccini. Cioè, se uno semplifica così, io credo capisce. Che io a quel cosa, punto il dibattito è finito, cioè non inizia l'uomo neanche. Che sul pianeta c'è un uomo nel pianeta, ha più soldi al mondo, che spende più soldi del suo patrimonio per curare le malattie, per fare i vaccini, certo, adesso sta cercando la cura sulla malaria, eccetera eccetera. L'uomo del pianeta che mette più soldi, non si capisce perché adesso sia diventato uno che dovrebbe guadagnarci, quando è uno che spende miliardi del suo patrimonio. Poi voglio dire, deve essere molto avido, perché di soldi credo che ne abbia messi da parte parecchi, no? per volerne di più. Poi però c'è anche una cosa: questa idea qui per cui il curare le malattie con i farmaci sia qualche cosa che alle case farmaceutiche, non so, non conviene, mentre dice: ah no, le case farmaceutiche vogliono il vaccino per guadagnarci. Ma col vaccino uno guadagna una volta sola, perché il vaccino si fa una volta. Dal punto di vista delle case farmaceutiche, il vaccino conviene richiede un sacco di soldi malati per essere studiato. Ma certo, perché costa molto di più e guadagna molto di più a tenere i malati e fare le cure che a fare il vaccino ed evitare le malattie. Quindi questa è una bufala gigantesca. Ma noi siamo un posto dove c'è qualcuno che crede alle scie chimiche, e queste sono le scie chimiche versione medicina. Amici delle scie chimiche, Mario Calabresi, esatto, vi ha appena attaccato, è il momento, esatto, di contrattaccare. No, io ricordo anche questa cosa, c'è stata questa polemica, noi abbiamo avuto ospite 2 giorni fa il professor De Donno a Mantova, che poi è letteralmente sparito, nel senso che non risponde più al telefono, sono scomparsi i social, Facebook, vabbè, quando vorrà noi siamo qui. C'è stata questa polemica col professor Burioni, ma se voi andate a vedere su Medical Facts, il sito in cui scrive Burioni, ha scritto tutto un pezzo, te l'ho mandato, Mario, in cui parla della plasmaterapia, e spiega che ha funzionato. Che diceva anche la professoressa, diceva che però non, il numero dei guariti non tutti sono utilizzabili. Dai conti della professoressa più o meno significa che se è il 70-60-70% del 50%, vuol dire che un terzo di chi è guarito ha questa possibilità di donare. E poi dice, è una cosa importante, e ricordava che su alcune cose funziona, su altre no, va utilizzato dove può essere utilizzato. Quindi questa specie di guerre di religione sono ridicole, secondo me squalificano chi le fa, sono ridicole. Allora, sentiamo Giuseppe da Vicenza, ci chiama. Buongiorno Giuseppe, mi dicono che sia un direttore amministrativo di una farmacia, no? Quindi, esatto. Giusto? Non sono un farmacista, e quindi posso parlare proprio della parte economica. Io, da quando è nata l'emergenza, visto che non si trovavano sul mercato, ho iniziato a cercare sul mercato cinese delle mascherine, ne ho trovate, ne ho importate, ho avuto le difficoltà. Tra l'altro, per le farmacie c'era una procedura semplificata per rimarle, e lo svincolo diretto, non erano sottoposti a sequestri. Dopodiché è arrivato questa ordinanza di protezione civile che ha imposto il prezzo. Premetto che io non faccio un prezzo imposto su un bene di questo tipo, ma è stata gestita nel modo peggiore assoluto, perché se vai a colpire l'ultima ruota del carro, cioè l'ultimo tassello della filiera, senza dar vedere quello che succede a monte, hai delle distorsioni terribili. A parte la perdita economica di chi ha fatto l'investimento, perché mi creda, la procedura per ottenere il rimborso, che è promesso, il ristoro, come l'hanno chiamato, promesso dallo Stato, è veramente molto complicata. Noi abbiamo deciso, per esempio, di venderle a 50 centesimi più IVA e considerare questo come un aiuto al nostro territorio. Ma sono venute a mancare, perché? Perché in Germania costano 1,80 euro, in Francia costano 1,60 euro. Quindi chi ha queste mascherine e ne ho sta diretta, le porta su altri mercati dove può venderle a prezzo libero. Certo. E questa è la questione. Ci ha appena spiegato Mario tutto il dibattito tra i liberisti e Arcuri. Cioè, molti hanno scritto: ma perché uno dovrebbe prenderle e portarle sul mercato italiano se c'è questo prezzo calmierato a 50 centesimi più IVA? Vado a venderle, che ne so, se la differenza la mette lo Stato. Sì, cioè questa cosa esatto. Sta in piedi, se la differenza la mette lo Stato, dice alla fine la dobbiamo consegnare ai cittadini a 50 centesimi più IVA, se però sul mercato per comprarle all'estero ci costano 1,50, l'euro lo mette lo Stato. Sì, invece tu dici lo Stato ha detto 50%, che lo metta quell'euro? Sì, esatto, tu dici se no lo Stato ha detto 50 centesimi più IVA, però... Non facciamo niente di più, adeguatevi. Ho capito, adeguatevi. Giuseppe ci ha spiegato perché uno che le importa le porta da un altro, in un altro paese dove, certo. dove non ci perde. Allora, Mario, andiamo un attimo in pubblicità. Tanto tu stai con noi, che bello! Che bello, stai bene. Con noi, sorpresona. E non stai c'è con neanche noi. Il caffè, capito? A te questa quarantena no, è convenuta. Perché come ripeto sempre dovete sapere che io vengo in cambio di un caffè in una tazzina di vetro, partecipo sì. a Milan e adesso però con la quarantena non c'è neanche più il caffè. Pensa che io ti stavo dicendo che ti raddoppiavamo il compenso per oggi, insomma, cioè, rispetto due caffè al solito. Mi dai. Sì, due caffè mi virtuali. Devi mandarmi virtuali. Una cialda per posta. Da asporto. Esatto, vieni qui in Viale Monza, ti rimetto nel bicchierino e te li, e poi non puoi neanche entrare. Allora, un attimo di pubblicità. Poi vogliamo parlare di questo mistero di Wuhan. È tornata la questione dei campionati dei mondiali dei militari. Che si sono svolti a ottobre. Vediamo, andremo a Wuhan, poi ci sono gli ascoltatori tra poco. Uno, nessuno, 100 Milan. A new girl, her name was Truth. She was a horrible liar. Buongiorno. Forse adesso diranno ai farmacisti fate un atto d'amore, ma dai! La museruola, mettetevela voi la museruola, basta, basta, truffa virus, basta! You have everything to lose. Perché non parlate dei ristoratori di Milano che sono stati multati per aver manifestato civilmente rispettando le distanze di sicurezza? È una vergogna, è una vergogna. Amico mio, alle 10.05 avremo ospite un ristoratore. Ma voglio dire, ci spoilera la scaletta questa scusa. Però è vero, è una vergogna. Noi avremo ospite più avanti. Più che una vergogna è una beffa ed è una cosa ridicola. Perché avevano le mascherine e stavano a distanza. Multassero avevano quelli che occupano i giardinetti o stanno sui navigli. Come quello lì che non vuole mettere la museruola. Esatto, no, quelli sono stupendi. Devi capire che io dico sempre che molti ascoltatori, noi abbiamo un ruolo sociale, caro Mario, qui, perché molti ascoltatori, vedi, chiamano, si sfogano, mandano questi audio un po' confusi, si sfogano, basta, e noi dispiace per i tanti psicologi, perché molta gente si sfoga qui e non va dallo psicologo. Quindi, però mi dispiace per la categoria, in alcuni casi addirittura psichiatri, però si sfogano qui e le loro tensioni sociali si sfogano qui, poi dopo non se la prendono con il vicino di casa, non se la prendono con il vicino al semaforo, si sfogano, quindi noi raccogliamo tutti questi sfoghi e facciamo del bene sociale. Ti piace come teoria? Bellissimo. Va bene, dai, si scherza ovviamente. Allora, ieri giallo anche su questa vicenda di Wuhan e i campionati militari. Lo spadista Matteo Tagliarol, anche lui, ti avviso, è in silenzio stampa dopo aver detto che si era ammalato a Wuhan, poi ha fatto un video, ieri possiamo sentire qualcosa su Instagram in cui un po' ripara, senti qua. Mi è stato chiesto se dopo i mondiali di Wuhan di fine ottobre io mi fossi ammalato, visto che era risaputo che molti atleti si erano ammalati di una forma influenzale, e io ho detto di sì, ho detto che dopo Wuhan mi sono ammalato. È stato un decorso normale, forse un po' più lungo del solito, e che poi visto che questa forma influenzale aveva colpito i polmoni, ho detto possono essere due cose, può essere il fatto che io sono asmatico e di conseguenza le forme influenzali mi colpiscono spesso ai polmoni, Oppure, visti i sintomi e tutto, c'era la possibilità che fosse coronavirus quando mi hanno chiesto. Vabbè, diciamo, ha fatto una parziale no, retromarcia. Però guarda che Mario è pieno di atleti internazionali. Ho visto in Svezia, in Francia, la pentatleta, tra l'altro bellissima, che viene ovviamente messa sui giornali in prima pagina da tutti, il pentatleta che si chiama Elodie, che dice siamo stati malissimo lì a Wuhan. Ignoranza mia, ma insomma, perché non gli fanno il test sierologico per vedere se hanno gli anticorpi? Siccome in Francia è stato fatto, è presente in Francia, proprio in Francia c'è è stato fatto un test a una persona che aveva avuto una polmonite bilaterale, se non sbaglio, intorno a Natale. Adesso non mi ricordo se due giorni prima, due giorni dopo, eccetera, eccetera. Gli hanno fatto il test adesso e hanno visto che ha gli anticorpi al coronavirus. Quindi probabilmente bisogna, come in Cina si sta tornando indietro, ormai si parla in Cina dei primi di dicembre, e quindi anche in Europa c'era già arrivata in forme probabilmente molto sporadiche già a dicembre. Molti posti, quando io raccontai la storia di Nembro, che è uno dei posti più colpiti della Bergamasca, nella casa di riposo a gennaio c'era stata una mortalità eccezionale. Calcola, la casa di riposo muoiono nell'ordine di 7, 8, 10 persone l'anno, e invece in un mese sono scomparse 20 persone, tutti con la polmonite bilaterale, cosa che fa pensare che già ci fosse, qualcosa, a gennaio, certo. Quindi un mese prima. Il punto è, noi andremo avanti, ma adesso si fa tutto in chiave di giallo, di mistero, eccetera, eccetera. Sarà molto interessante, sarà una vera cosa che durerà anni. La ricerca di provare a comprendere e a capire quando è cominciato, come si è mosso, che cosa è successo. Non è che anche qui, scusa mi ripeto, ma il problema è che è sempre lo stesso, anche qui non è che ci sono delle guerre di religione, per cui, ecco, l'hanno detto... Nessuno evidentemente se n'era reso conto, anche questo sportivo militare, che poi è un olimpionico della scherma, anche lì nessuno se n'era reso conto, evidentemente, se anche fosse stato. Il punto è, oggi si facciano dei test, infatti, oggi si studino questi casi per capire se le cose forse sono andate addirittura in un altro modo. Ma vogliamo sentire, proprio ci colleghiamo con Wuhan, dove torna con noi Lorenzo Mastrotto, è un manager italiano che vive e lavora lì. Buongiorno Mastrotto, eccoci. Buongiorno a voi. Allora, intanto se ne parla in Cina di questi campionati mondiali militari, perché sa, cioè, è diventata anche una questione un po' geopolitica tra America e Cina, è inutile discuterlo. Sì, ha detto giusto, sì. Questi campionati militari erano una vetrina per lanciare il Wuhan a livello internazionale, poi ci sono riusciti in un altro modo, evidentemente. Sì, se ne parla dicendo fondamentalmente il cinese medio, diciamo, segue la linea per cui sì, il virus è entrato in Cina durante questi campionati mondiali militari portato dagli americani. Ah, ecco, quindi alla fine la traducono così, come questa dire, ci mancava. Giusto per, ma giusto per dire dagli all'untore, ecco. Ma all'epoca, però, la vicenda che ci fossero tanti malati o un numero maggiore, non credo che fosse diventata una notizia, no, legata a questi campionati. Guardi, all'inaugurazione dei campionati è venuto qui a Wuhan per un giorno il presidente Xi Jinping. Quindi, se ci fosse stato da parte delle autorità cinesi, se avessero saputo che c'era comunque qualsiasi tipo di rischio, non avrebbero certo fatto venire il presidente. Infatti a febbraio, quando stavano costruendo i famosi ospedali, vi ricorderete, che sono stati costruiti in 10 giorni, certo, non è venuto il presidente, ma è venuto il primo ministro, cioè il numero 2. Il presidente è venuto solamente a emergenza praticamente conclusa, e si è fermato solamente nelle aree già sicure. Non si è avvicinato a casa mia, che era una delle aree più a rischio. Quindi il fatto che sia venuto Xi Jinping a fare l'inaugurazione in diretta televisiva, eccetera, vuol dire che comunque, se anche, diciamo, mettiamo l'ipotesi, il virus fosse circolato in quel periodo, comunque non lo sapevano le autorità, non erano a conoscenza. Poi recentemente, ma già qualche mese fa, parlando con la nostra comune amica, la dottoressa Sara Platto, che avete intervistato anche voi, lei mi faceva presente che in questa zona dove c'è anche il lo stadio dove si sono svolte, dove si è svolta la cerimonia inaugurale, dove si sono svolte. Ecco, proprio in questa zona lei lavora all'università che è vicina a questa zona, io lavoro qui pure, siamo molto vicini, e a settembre diceva che nelle scuole internazionali, che frequenta anche suo figlio, che frequentano altri francesi, eccetera, c'era un'incidenza molto alta in quel momento, poi ci ha pensato dopo naturalmente, di casi di di influenza, diciamo, con blocco delle vie complicazioni respiratorie tra i ragazzi. Esatto. Però sì. La cosa particolare è che poi era colpiva soltanto i ragazzi e non gli anziani, al contrario di questo virus, invece, quindi aveva una dinamica completamente diversa. No, ma è chiaro che insomma la situazione, però vi faccio sentire una voce, caro Mario Calabresi, forse tu questa storia di questa atleta militare americana è passata un po' sotto traccia, si chiama Mathieu Benassi e in America un sedicente giornalista, in realtà un blogger, pare anche abbastanza seguito, tale George Webb, alla fine l'ha indicata come il paziente zero che, avendo partecipato ai mondiali militari, ha portato il virus, no? Mathieu Benassi. Apriti cielo, da quel momento questa donna vive praticamente sotto scorta perché ha ricevuto le minacce di morte più terribili che possano essere concepite e che potete immaginare. Sentiamo almeno la voce alla CNN. It's like waking up from a bad dream going into a nightmare, like day after day. This is Mahia Benassi. She and her husband Mash are in the center of an elaborate conspiracy theory promoted by. Questo George è il servizio della CNN. Senti George Webb, senti. Zero, which is Mata Benassi. He's a conspiracy theorist who has nearly 100,000. Mario, proprio l'ha indicata così. Eccoci qua, siamo arrivati al paziente zero che si chiama Mahia Benassi. C'è proprio una gogna totale da quel momento. Donna. Scusa un secondo. Lei, il paziente zero significa vittima, se anche fosse lei, ipotizziamo che fosse lei, vittima zero, poveretta, è la prima che prendere il virus che non è beccato. Certo. Non è come dire che dici, sai, lei ha portato il virus, no? In una boccetta e l'ha sparso, ho capito, no, ma anche lei si era ammalata. Cioè, questa qui è un'altra follia, che qualcuno abbia colpa. Attenzione una cosa, come sono cambiate anche le cose. All'inizio di questa epidemia si guardava ai malati a dire, vi ricordate, il paziente 0, 1, poi adesso scopriremo che sarà, che è il paziente 1500 di Codogno, esatto. E si diceva lui, ma chi ha frequentato, dove l'avrà preso? Adesso diciamo questo, siccome non si trovavano i legami, a un certo punto sui social incominciarono a girare le cose, magari era andato in un centro massaggi cinese, certo. E l'ha preso lì e non lo voleva dire alla moglie, e chissà cos'è stato. Sostanzialmente quello lì, da vittima, stava diventando un colpevole. Grazie al cielo, devo dire che oggi in Italia tutti quelli che si ammalano, la gente li vede come vittime e ha solidarietà e non li vede come un tori, cosa che c'è stata nella prima fase. È stata proprio, è esplosa. Mastrotto, lì a Wuhan come va? Cioè, perché qua vediamo le immagini sui navigli a Milano, anche di ieri, primo giorno di semiapertura. Tanto tutti a farsi chiedere se tutti a Wuhan ci sono i navigli. Non credo. Cioè, ci saranno delle zone. Però come dei va canali, la magari ripresa della vita? Ma va bene, noi stiamo tutti quanti tornando a lavorare, poi sono passate le ferie anche di maggio, quindi adesso quasi tutti gli uffici hanno riaperto, certo c'è molta gente che ha perso il lavoro, però le scuole sono già ripartendo, adesso sono ripartite l'ultima classe delle superiori per via dell'esame, stile maturità che devono dare, sono già previsto per il 20 maggio che ripartono le scuole medie, per le elementari, che frequenta anche mio figlio, penso si andrà a giugno, quindi c'è già un piano di ripartenza abbastanza, gli aeroporti sono aperti, le stazioni sono aperte, ancora ci sono molti controlli, però stanno pian piano diminuendo, cioè si tende un po' a essere un po' più rilassati rispetto a 2-3 settimane. I bar e i ristoranti sono aperti? Stanno riaprendo già, anche i ristoranti di alcuni amici italiani che erano preoccupati per la situazione, quindi già da una decina di giorni c'è molto controllo della polizia, cioè la polizia tende ad andare spesso a vedere se si mantengono le distanze di sicurezza, non si può comunque consumare all'interno, ma bisogna consumare in aree esterne predisposte, però tengono aperto e quindi la situazione pian piano anche per loro comincia a mostrare un po' di ottimismo. Sì, sì, però pian piano, ricordiamo che loro sono partiti 2 o 3 mesi prima. Alessandro, Mario, io sottolineerei una cosa, che dopo quattro mesi, la preoccupazione dei cinesi è stata riaprire gli uffici a seconda dell'indispensabilità, poi le scuole partendo dalle maturità e andando indietro, e adesso da 10 giorni i ristoranti da asporto. Allora, non si capisce però anche, adesso te lo butto lì per il tuo prossimo collegamento delle 10, non si capisce perché qui invece noi partiamo dalla preoccupazione, appunto quelli che vanno a fare l'aperitivo da asporto sui Navigli, dalla preoccupazione, noi non abbiamo né riaperto le scuole, né noi siamo a 2 mesi sostanzialmente, non siamo 2 mesi e mezzo, non siamo a 4 mesi come Wuhan, ma la nostra preoccupazione è no, però dobbiamo ritornare a fare l'aperitivo. Adesso non è la preoccupazione di tutti, eccetera, eccetera. Però queste cose qui non bisognerebbe neanche perderci tempo e non bisognerebbe continuare a tirare per la giacca il governo su queste cose, ma dire facciamo un piano serio di riaperture, di rientri su queste cose, sulle cose più indispensabili. Attento però, Mario. Perché se mi dici collegamento con le 10, guarda che se vuoi stai qui fino alle 11, eh. No, fai tu. Ecco, vedi. Va bene, ringraziamo Lorenzo Mastrotto da Wuhan, grazie. Sulle scuole, grazie. Poi dopo il traffico ne ho da dire una e vorrei il tuo parere, sulla nuova proposta, entrare ogni classe, una classe ogni quarto d'ora, dopo il traffico. C'ho una roba bella da raccontarti. Aspetta che c'è il traffico, vai. Uno, nessuno, 100 Milan. Hi, my name is Stereo Mike. Calabresi e Milan, il politburo della radio. Calabresi, menscevico. Ecco, veramente bolscevico, menscevico, era un classico. No, allora questi, le scuole, la proposta. Una cosa, scusa, dall'accento non potrebbero essere i fratelli dell'Alpino? O i cugini? Non lo so. Tu dici che è tutta una roba fatta in casa, casereccia, ma guarda che invece è tutta una vostra macchinazione. Allora, entrino uno ogni quarto d'ora le classi, ma io ho fatto un calcolo, ma se ci sono, che ne so, 5 sezioni in una classe, in una scuola elementare, quindi 25 classi, cioè 4 all'ora, 6 per 4, 24, ci vogliono 6 ore a fare entrare l'ultima classe, cioè scusa, allora tanto vale, figurati se sono elementari e medie tutte insieme. Cioè l'ultima classe cosa fai, entra alle 17, però non vogliono i doppi turni. Allora mettiamoci d'accordo perché... Però questa cosa qua ci fa rendere conto come riaprire le scuole, volendo rispettare tutte le norme di sicurezza, è la cosa più difficile e complicata a cui siamo davanti oggi. Io mi faccio un attimo pubblicità, ma è semplicemente per raccontare questo. Nella mia newsletter di oggi ho messo la traduzione dei 44 punti di una scuola elementare che il preside ha dato ai genitori di una scuola elementare di Berlino. Allora, a seguito delle linee guida, poi ogni preside mette dei suoi dettagli e i bambini devono rispettare 44 punti. Questa scuola elementare dal 4 maggio, da lunedì, è tornata all'ultimo anno delle elementari. Il primo passo loro fanno l'ultimo anno delle elementari. Allora, questa classe qui hanno diviso i bambini in 2 classi, 10 in una classe, 10 in un'altra. I banchi devono stare a 1,5 metri di distanza uno dall'altro. I bambini non possono mai alzarsi se non gli viene richiesto. Entrano uno per volta, turno per classe. Le 4 quinte elementari entrano da 4 ingressi diversi della scuola e hanno 4 percorsi diversi. Usano il bagno e la mensa in 4 orari diversi. Vanno a turno. I bambini non possono scambiarsi i quaderni, le matite, le gomme. Non possono andare a parlare all'insegnante. Non possono andare alla lavagna. Cioè io ho fatto tutto lo schema e l'ho riportato perché ogni 2 ore si devono alzare a turno e ogni minuto esce uno per andare a lavarsi le mani. Cioè una cosa impressionante. E ci la fa cosa rendere incredibile conto che di come... Che rispetteranno tutto questo. Sì. No? Tu ci credi. E Sì, rispetteranno tutto questo, e però non hanno la mascherina, perché loro si rendono conto che tengono la distanza, gli fanno lavare le mani, mm-hmm. che imporre a dei bambini dell'ultimo anno delle elementari di tenere tutti la mascherina tutta la mattina complicato. È una cosa sostanzialmente tra l'altro impossibile. Mario, la nostra Elisabetta Fusconi, che come ben sai è svizzera, su questo, fa la Svizzera in Italia e l'italiana in Svizzera, molto, molto banalmente, comunque ci fa sapere che i ristoratori che apriranno lunedì Svizzera, però dovranno prendere nota di tutti i nomi, telefono, posizione del tavolo degli avventori e tenere i dati per 14 giorni, perché è il tempo di incubazione, e non mettere più di 4 persone per tavolo. Ma tu ci vai in un ristorante a queste condizioni? Perché questa è la domanda, come i ristoranti dove compare il plexiglass. Ma la domanda è questa, ci torneremo nei ristoranti dovendo rispettare questo tipo di regole? Io credo che guardiamo per passi. La salvezza quest'estate saranno i marciapiedi invasi di tavolini distanziati. Certo. Sì. Eh sì. Questa è la nostra salvezza, che questo è venuto alla fine dell'inverno, poi è durata la primavera e adesso arriva l'estate. Se adesso fosse stata questa un'influenza tradizionale stagionale e quindi adesso fossimo a dicembre o a gennaio, sarebbero dolori ancora più grossi. Eh sì. Sentiamo, punto di vista della nostra vivibilità. Sentiamo Albertina, ci chiama da Trieste. Buongiorno Albertina. Buongiorno. Senta, io volevo segnalare una cosa. Questa mattina ero al supermercato alle 8. C'erano delle persone, tra l'altro anziane, non giovani, e tutte con la mascherina e con il naso fuori. Mi sono permessa di dire che la mascherina così non serve a niente. Che si come ha reagito? Come hanno reagito? Come sì, hanno, certo reagito? Che hanno reagito. Hanno reagito dicendomi che loro non riescono a respirare. Io ho detto allora rimanete a casa e che allora la spesa gliela farò io, insomma in modo sgarbato. Ma questa è una cosa tipica dei triestini, non si preoccupi. I triestini sono sgarbati, i liguri sono taccagni. Sì, abbastanza, sempre stati. Ecco, questa è la verità. Io sono triestina e amo Trieste, ma però la verità è questa. Io dico solo questo. Qui sotto ho un cantiere della Cegas che sta lavorando. Regolarmente sono senza mascherine attaccati uno all'altro. Anche lì mi sono permessa di dire ragazzi, le mascherine. Uno si è scusato, quell'altro mi ha, tra l'altro dovevano essere, non so, serbi, non so cosa, mi ha maledetto e pazienza. Adesso io dico, quando signora, la polizia la fa eroina. Degli accertamenti, sì, deve andare in borghese, non può andare, arrivare a sirene spiegate. Capito, Mario, la signora vuole la polizia in borghese, certo. Cioè, quindi che si infiltra a fare le multe. Certo, però, ma i commessi non hanno ragione, non hanno coraggio di dire niente per paura di perdere i clienti alla Despar, perché io ho detto alla cassiera, ma mi scusi, anche dirgli, effettivamente, allora sì, però capisce che anche già i cassieri e le cassiere sono in un momento di grande pressione, dare loro anche la responsabilità di fare come dei poliziotti, io direi di no. Lei ha fatto bene a segnalare, però Mario è diventata la tua eroina, signora Albertina. Esatto, signora, lei è una anche grande. Anche se sono sgarbati a Trieste, ci ha detto Albertina. No, Trieste è una città meravigliosa, certo, meravigliosa. Agostino da Cremona, dimmi chi c'è. No, ti volevo dire, c'è un paese in cui i contagi sono rimasti molto bassi ed è Israele. E sì, in Israele c'era un articolo molto interessante l'altro giorno, era nella rassegna stampa che fa per newsletter il Corriere della Sera, e raccontava come in Israele sono state fatte una serie di cose. Intanto abituati al terrorismo c'è un rispetto delle regole di distanziamento e delle precauzioni molto alto e sono abituati a rispettarle. E poi le persone... Qui, cosa che da noi sarebbe vista come una vergogna, invece le persone, come fosse la signora o come vorrei essere io, segnalano tutti quelli che non rispettano o che potrebbero essere malati. E i servizi segreti israeliani, che sono noti per la loro efficienza, sono mobilitati nel cercare tutti i possibili ceppi di contagio e più o meno metà dei positivi sono stati individuati dai servizi segreti. Allora, certo. Detto questo, non è che poi a questi qua gli succede qualcosa, vengono curati o messi in isolamento, e quindi però per cercare di intercettare tutti i possibili. E però i cittadini hanno segnalato, perché come segnalano se c'è una borsa sospetta, segnalano se c'è una persona sospetta di essere malata. Come dici tu, è anche questa esperienza purtroppo tragica che hanno, come dire, con cui devono fare i conti quotidianamente. Ecco, ce la facciamo Agostino da Cremona per chiudere questa prima ora. Agostino, buongiorno. Sì, buongiorno, buongiorno. Senta, mascherine, dunque abbiamo l'obbligo, no? L'amministrazione, lo Stato, chiamiamolo come vogliamo, ci obbliga a mettere le mascherine, bene. Dicono che serve, ok, facciamolo. Però, primo, ci devono essere. Secondo, se è un obbligo, scusi, ma non dovrebbe essere lo Stato a fornirle. Ma non ne faccio... Non faccio una questione ma di guardi prezzo. Un ascoltatore ha scritto: in Emilia Romagna ne ritiriamo 30 al mese, lì poi sa regione che vai lei però voglio dire tanto ci devono essere, che mi sembra già anche abbastanza ridicolo che dopo 3 mesi oramai, insomma, non siamo capaci di produrre mascherine in maniera adeguata. Ma c'è l'obbligo di mettere il casco se uno va in moto, no? Però uno non è obbligato ad andare in moto, mentre invece tutti dobbiamo, tra virgolette, vivere, no? Allora, se per vivere, perché prima o poi dobbiamo uscire di casa per qualche motivo, no? Sono obbligato a rispettare un obbligo che lo Stato mi dà, allora metti a disposizione questa qui, perché altrimenti non facciamo. È interessante, Agostino. Allora, noi abbiamo chiuso la prima ora. Qui adesso c'è un messaggio che io giro a Mario Calabresi, di cui ricordo la newsletter mariocalabresi.it o.com, se volete unirvi. Abbonamento di 10 caffè offriamo noi se Mario Calabresi si ferma fino alle 11. Grazie. E questo è... Non posso, purtroppo non può, perdo neanche l'abbonamento ai 10 caffè. Neanche comprato con 10 caffè, incredibile questa cosa, incredibile. Va bene, allora Mario, ci abbiamo provato fino all'ultimo, ti ringraziamo moltissimo per essere qui. Settimana prossima, secondo me, quando tornerai, se vorrai, ci dovrai raccontare anche qualche novità. Vabbè, chi lo sa, qualche nuova iniziativa. Il segnale orario vi è offerto da Zazà, la scamorzina di Brazzale tutta da mordicchiale. Uno, nessuno, 100 Milan. Mio padre è morto nel 2018 con una polmonite bilaterale. Non è che sia morto con il Covid, infatti noi qui a Ferrara, in tutta la provincia, siamo in 139 contagiati. Non è che magari noi qui abbiamo avuto nel 2018. Comunque, in merito alla questione mondiale a Wuhan già a ottobre, ricordo che Sarri a settembre, inizio campionato, è stato assente per 4-5 settimane per una inspiegabile polmonite e guarda caso la Juve aveva fatto una tournée in Cina. Quindi hai visto mai che questo virus girava già da molto molto prima di ottobre? Comunque, Milan, bolscevico! Ecco, concludiamo così. Adesso Sarri, ricordo anch'io, inspiegabile polmonite. Beh, le polmoniti esistono, caro ascoltatore, adesso non lo so. Sì, poi la Juve è andata in Cina e Sarri ha avuto la polmonite. Va bene. Io, prima di sentire quel pigrotto di Manera, perché ci sono dei contributi di Manera, vorrei leggere il Mattia Feltri di oggi, il Buongiorno sulla Stampa, perché è un qualcosa che fa molto riflettere anche noi colleghi, noi giornalisti, un certo modo di fare giornalismo. Parla del Pio Albergo Trivulzio, scrive Mattia Feltri. Ricordate il Pio Albergo Trivulzio, la strage dei vecchi, le violazioni delle più basilari norme sanitarie, il menefreghismo dei vertici, le orride speculazioni, eccetera, eccetera. Bene, quella era la parola dell'accusa. Mercoledì ha preso la parola la difesa e l'ha ripresa ieri nella persona del consulente scientifico di parte. Purtroppo le tesi difensive non hanno riscosso pari entusiasmo e non se n'è trovata traccia se non a pagina 40, per cui si prova a porre rimedio qui. Dunque, dice il consulente scientifico che l'inchiesta è tutta panna montata, collegata al comprensibile dolore dei parenti, che il Trivulzio si è adeguato alle disposizioni nazionali e regionali coi limiti che già c'erano, con le mascherine mancanti perché contingentate e indirizzate agli ospedali, che il 40% dei morti in Europa, non a Milano, si è registrato nelle case di riposo, che da gennaio ad aprile al Trivulzio sono morti 300 ospiti, un numero enorme, ma il tasso di mortalità rispetto allo stesso periodo degli anni 2015-2019 è salito del 61%, mentre a Milano è salito del 135%, più del doppio. Insomma, panna montata, appunto. Questa è solo la difesa, direte voi. Certo, e prima era solo l'accusa. Ma il punto è che il nostro consulente scientifico si chiama Fabrizio Pregliasco, uno dei virologi più stimati del momento, un'autorità indiscussa, sentito mattina e sera da giornali e TV a separare il bene dal male. Poi difende il Trivulzio e di colpo i riflettori si spengono. Ma guarda un po' com'è beffardo il destino. E mi ha fatto molto riflettere su inchieste che devono essere fatte, devono essere approfondite, devono essere portate avanti dai magistrati, però ho come il sospetto che i riflettori si siano accesi soprattutto sul Pio Albergo Trivulzio a Milano, che ricorda Tangentopoli, da lì è nata Mario Chiesa anni fa. Ecco, il sospetto di un'attenzione mediaticamente superiore per quella struttura rispetto alle tante strutture, le residenze sanitarie per anziani, dove si sono consumate tante tragedie in questi mesi, io ce l'avevo dal primo giorno e continuo ad averlo. Questo era Mattia Felti, il buongiorno sulla stampa, ma appunto Vestaglione a Manera oggi non c'è, torna con noi lunedì, ma ci ha lasciato alcuni contributi, un paio di contributi. Il primo, io non ci volevo chiedere, ma l'ha fatto, cari ascoltatori. Cioè, voi rendetevi conto, Leonardo Manera, cosa è arrivato a fare. Aveva detto, va bene, interrompo il monologo a metà, non so se perché gli era scoppiata la stupidera, come dicono a Milano, o perché il tempo era limitato, e continuerò, lo racconterò un'altra volta. Cioè ha riciclato un monologo per farlo tutto fino in fondo. Veramente un pigrottone. Vai, Alpino. Questi giorni in cui si comincia la fase 2, in cui si può cominciare a uscire, si parla invece di sindrome della capanna. Cos'è la sindrome della capanna? È il desiderio di non uscire più, di rimanere dentro la propria casa, la propria capanna. Anche perché per noi italiani, in fondo, la casa ha sempre avuto una grande importanza, anche se le case di una volta erano diverse da quelle di oggi. Quelle di una volta erano con l'ingresso e la cucina grande, dove la madre cucinava per tutto il giorno, il figlio andava a letto di sera che la madre stava cucinando e si rialzava di mattina che la madre stava cucinando. Per le donne di una volta la cucina era un lavoro a tempo pieno e alcune di loro, oltre a fare quel lavoro a tempo pieno, avevano anche l'hobby della cucina. Perciò quando smettevano di cucinare per rilassarsi un po', si dedicavano al loro hobby e cucinavano. C'erano libri per le donne che si chiamavano Prendilo per la gola, dove si suggeriva quali manicaretti cucinare per conquistare l'uomo della vita. Il ragù poi stava sul fuoco per ore, costava più di gas che di carne. E poi le torte, le frittelle, la pasta asciutta, la pizza fatta in casa, tutto in casa, nella cucina della casa. La donna si sposava, a volte ancora vergine, la prima notte di nozze faceva l'amore per la prima volta, poi il viaggio di nozze a Venezia, Napoli, Firenze, Roma, e poi stava in cucina per sempre. Dentro quella casa dove la madre cucinava e partoriva e cucinava, erano i due elementi essenziali. Infatti a volte il primo figlio si chiamava primo, che andava bene sia per un piatto che per il figlio. E intanto il marito, divenuto padre, ingrandiva la casa, perché arrivavano i figli, c'era il salotto buono dove non si entrava mai, era una stanza inutile col divano ricoperto da un telo, al limite se proprio ci si sedeva sul telo, quella stanza spesso non era neanche riscaldata perché si sapeva che non si sarebbe usata mai. Qualche volta la si faceva vedere agli ospiti e poi si chiudeva subito la porta. Però sapere che c'era il salotto buono dava conforto, anche perché si viveva in cucina, tutti insieme. E se i figli non obbedivano, il padre li poteva picchiare. Se durante il giorno succedeva qualcosa, la madre minacciava il figlio, diceva: stasera lo dico a papà. e il figlio era terrorizzato, tutto diverso da quello che succede adesso. Adesso è una minaccia inutile. Invece di dire stasera lo dico a papà, la madre, se vuole davvero minacciare il figlio, deve dire stasera ti tolgo la PlayStation, che poi è la stessa minaccia che la moglie fa al marito. Le case di adesso invece sono diverse. Spesso l'ingresso non c'è, si entra direttamente nel salone. Salone poi, per modo di dire, è una stanza con dentro la cucina che si chiama all'americana, che poi in verità in tutti i film e le fiction americane io vedo sempre che la cucina ce l'hanno a parte, non dentro la sala. Secondo me la cucina all'americana è un'invenzione degli agenti immobiliari per venderci le case dove non c'è la cucina a parte. Il salotto buono ovviamente non esiste più, c'è la cameretta del figlio di 9 metri quadri, figlio che spesso è unico, se i figli sono due c'è un letto a castello. Il figlio più sfortunato per dormire fin da piccolino deve imparare ad arrampicarsi, altrimenti dorme per terra. Poi c'è la camera matrimoniale col materasso in lattice comprato in qualche televendita e davanti al letto la TV. Si va a letto, si accende la TV, si guardano i virologi e passa la voglia di fare figli. Intanto sul fuoco il ragù non sobbolle più. Il giorno dopo poi si riparte con le mascherine. Le mascherine. Forse è a causa delle mascherine che viene la sindrome della capanna. La sindrome della capanna. E allora, cari ascoltatori, noi andiamo. No, c'è Giuseppe da Milano. C'è Giuseppe da Milano prima del traffico. Buongiorno, Giuseppe. Sì, buongiorno, Milan. Sì. Ascolti, io ero in macchina stamattina, ho sentito un pezzettino della sua titubanza nel vedere tante persone in giro che si frequentano e che parlano insieme, eccetera. Io ho visto le foto, ho pubblicato le foto soprattutto, certo, sui navigli, sì, sono, di chi sono pubblicate da tutte le parti, ma il mio pensiero è che a questo punto, dopo 2 mesi e mezzo di chiusi in casa, forse sarebbe meglio aprire veramente a tutti, perché l'immunizzazione di gregge in questa maniera ce l'avremo tra un anno. Più stiamo isolati, lei che lavoro fa ecco, io sono un istruttore di guida e quindi io faccio il giornalista, non giochiamo, sì, a fare i medici. No, ma lì cosa ne sappiamo, né io né lei, dell'immunizzazione di gregge. Ma in effetti non ho detto che sono medico o cose di questo genere, né mi voglio sostituire se ci dicono di rispettare le distanze e che l'immunizzazione di gregge è molto lontana, certo, rispettiamo quello che ci dicono, no? Secondo il mio punto di vista, più andiamo avanti e più tardi arriverà, certo, arriverà. Però capisce, certo, ma capisce, ma lei è disposto a ridurre le distanze e rischiare di essere uno di coloro che ci lasciano la pelle in nome dell'immunità di gregge? Sì, non, certo, non credo. Perché punto, come le dicevo prima, a questo punto arrendo. No, a questo punto. No, se lei dice sono disposto a rischiare la vita pur di ottenere l'immunità di gregge. Ma non si rischia più la vita oggi, come le dicevo, dopo 2 mesi e mezzo di studi, mi lasci finire. Dopo 2 mesi e mezzo di studi e dopo le terapie che hanno trovato dicendo che se preso subito nessuno finisce neanche in ospedale. Se vengono curati ma, subito. Ma lei i numeri della gente. Ma perché la gente muore anche ieri, scusi? Moriva. Perché l'hanno preso prima. Ma ieri. Sono morte 200 e passa persone. Perfetto, ma l'hanno preso prima. Perché se l'avessero... Sono arrivati in ospedale tardi. E poi, ripeto, molta cura per le persone anziane, molta cura per tutti quelli che hanno patologie, ma facendo l'immunizzazione e verificando quindi liberi tutti immunità di gregge, sì. Va bene, Giuseppe, scusi, io l'ho lasciata parlare. Ripeto, le ricette, con tutto il rispetto che fa un lavoro importante, l'istruttore di guida, però le ricette scientifiche, ognuno può avere la propria idea, sì, siamo un paese di 60 milioni di allenatori della nazionale di calcio, quindi ci mancherebbe, però su una cosa così delicata io tendo ad ascoltare quello che dicono i medici. Lei è della teoria, apriamo tutto, tanto così arriverà l'immunità di gregge, tanto, dice Giuseppe da Milano, adesso se uno viene preso subito guarisce al 100%. Io questa certezza non ce l'ho, non ce l'hanno neanche i medici e gli scienziati. Se dicono che è ancora rischioso, che è ancora, fate attenzione, non scherzate col fuoco, tendo, con tutto rispetto, a credere più a loro che a lei, ma perché hanno studiato un po' di più, tutto qua. Comunque Giuseppe, la ringrazio. Dopo il traffico avremo ospite uno dei ristoratori di Milano che ha manifestato ed è stato multato, tra poco. Uno, nessuno, 100 Milan. Milan, digli a quelli che vogliono le mascherine gratis dallo Stato, perché sono obbligatorie per girare, anche l'assicurazione dell'auto è obbligatoria, però non gliela paga lo Stato. Buongiorno Milan, parlate dei guanti, i guanti in lattice, in nitrile, com'è che non si trovano? Io qui a Torino non riesco a trovare nessun supermercato, le farmacie, cioè parlano delle mascherine, i guanti che sono obbligatori, i guanti. Ciao Alessandro, mi è giunta una segnalazione che Adamo è morto di polmonite bilaterale, quindi secondo me il Covid-19 è cominciato ben prima e non inizialmente, ce lo dicono. Inizialmente non capivo, ho detto ma chi è Adamo? Scusate, ci sono arrivato. Beh, l'ironia dell'ascoltatore non è male. Adamo è morto di questo. Allora, voglio salutare Alfredo Zidi, che è uno dei titolari del ristorante Al Tronco di Milano e presiede anche il club Imprese Storiche di Milano in Confcommercio. Buongiorno Zini, grazie di essere qui. Buongiorno a voi, grazie allora, per l'ospitalità. Ci mancherebbe, lei era uno dei presenti a questo flash mob che è stato organizzato all'Arco della Pace a Milano, dietro proprio al Parco Sempione, uno dei luoghi più suggestivi, belli di Milano. Multato, lei è stato multato? Guardi, io sono stato segnalato, nel senso che non ho preso fisicamente, sì, non ho preso fisicamente la multa, ma perché forse avevano finito il blocchetto, insomma. È andata bene da questo punto di vista, ma siamo tutti, insomma, solidali con chi le ha prese, quindi stiamo cercando un po' anche di fare ricorso e di capire cosa fare. Sì, addirittura so che un vostro collega, Paolo Polli, ha deciso per protesta di dormire, cioè proprio ha dormito fisicamente lì dove c'è stato il flash mob con la gente che le ha portato l'acqua, le coperte, per gesti di solidarietà, no? Sì, ancora qua, proseguirà finché non sarà ascoltato da chi di dovere, insomma, questo è un po' il senso della sua protesta. Perché lei dice ancora qua, perché anche lei adesso si ritrova nello stesso luogo. Sì, sono arrivato qui anch'io, insomma, a portargli, come ha detto giustamente lei, viveri, un po' di acqua, il cappuccino, insomma, cerchiamo di fargli vedere la nostra vicinanza e stiamo organizzando una raccolta di viveri da destinare agli ospedali o alla Croce Rossa. Vorremmo che i nostri colleghi... C'è da dire che da parte di tutti c'è massima solidarietà, cioè io trovo veramente abbastanza incredibile. Sicuramente norme alla mano potreste avere violato qualche tipo di regola di uno dei 50 decreti che sono stati emessi, non lo metto in dubbio, ecco. Però è abbastanza incredibile questo tipo di multa, visto che voi avevate segnalato la protesta, ve l'avevate annunciata e poi è arrivata l'inflessibile legge. Ci vuole spiegare esattamente il motivo della protesta e perché voi dite non è il caso di riaprire in queste condizioni? Ma non è il caso, perché innanzitutto non ci sono regole certe, ne abbiamo sentite tante come tutti in questo periodo, capiamo che il momento è complesso, ma non si può dire degli imprenditori aprite senza regole, con un rischio di denuncia penale in caso di contagio da parte dei nostri collaboratori o dei clienti, una nuova chiusura senza sapere le regole, quelle che non sapere quali sono i dispositivi da adottare per riaprire in totale sicurezza per noi, per i nostri collaboratori, ma soprattutto anche per i nostri clienti. Questo quindi è lei grosso, questa fuga in avanti, questa fuga in avanti che qualcuno dice, cioè riapriamo l'11 maggio, per esempio il Trentino Alto Adige, notizia di questa mattina, ha detto noi vogliamo riaprire tutto, bar, ristoranti, l'11 maggio, cioè lunedì prossimo, tra 3 giorni. Voi dite anzi no, è il contrario, così falliamo. Ma certo, come si fa a pensare di poter rispondere in maniera penale perché una persona che arriva da noi entra, ci può essere un contagio e siamo noi responsabili? Cioè è una cosa assurda, non è pensabile questo. Io metto in campo e metterò in campo tutte le prescrizioni, precauzioni che mi verrà detto dall'autorità competente. Non posso assumermi io delle responsabilità senza sapere cosa devo fare. Le faccio un esempio, la mascherina chirurgica va benissimo per gli operatori che stanno davanti a un forno di 280 gradi, 300 gradi, e se perdono la loro consistenza e quindi possono uscire le famose goccioline e mi contagio un altro collaboratore. Posso essere io, perché è stata specificata solo la mascherina chirurgica che va bene, magari ci vuole un dispositivo differente. Ecco, questo credo che sia il tema. Allora, riaprire in totale sicurezza per, ribadisco, garantire la sicurezza di tutti i cittadini. La salute abbiamo detto che è al primo posto e noi vogliamo garantire la sicurezza. Questo è il tema di fondo. E però cosa ne pensa del grido di dolore di molti che dicono io se non riapro anche in maniera limitata ho l'affitto da pagare, ho le tasse, cioè fallisco proprio nel giro di poco tempo. Per cui molti ristoratori in realtà dicono vi prego fateci riaprire in qualche modo anche limitato, ma fateci riaprire. Ma guardi, chi sta protestando, ci sono anche quelli che hanno aperto, che stanno avendo degli incassi di 100 euro, 80 euro, 50 euro al giorno. E c'è gente che paga 12.000 euro al mese di affitto. E quindi sanno benissimo in questo momento di non riuscire a rimanere, falliranno comunque, ne sono consapevoli. Sono aperti per aiutare i propri collaboratori che non hanno ancora preso una lira della cassa integrazione. E quindi molti imprenditori stanno facendo questo lavoro proprio per aiutare i propri collaboratori. Non certamente per pagare l'affitto, non certamente per pagare le utenze, che sono a dei livelli incredibili nella città di Milano. Cioè un affitto medio sono sui 5.000 euro al mese. Dopodiché hai tutte le utenze. Noi chiediamo anche sulle utenze di ragionare in maniera differente. Non si può avere l'80% di accise, tasse e IVA su un consumo reale di 200 euro, vai a pagare una bolletta di 1.000 euro. Allora questi costi devono inevitabilmente, visto che dipendono un po' dalle amministrazioni locali, tutte le società, bisogna abbassare i costi per garantire la sopravvivenza, ma soprattutto l'occupazione dei nostri collaboratori. Questo è il tema di fondo. Tanti sanno che fra qualche settimana chiuderanno un'altra volta se vanno avanti con delle entrate del 20% a costi che sono oggi del 100%. Le aggiungo che per adeguarsi a quelli che saranno i dispositivi ci sarà da fare un investimento per le attività. Abbiamo fatto dei calcoli. Un ristorante di 200 metri, presumibilmente con 4 dipendenti, che è il minimo sindacale per riaprire con il 30% di clienti, ha un esborso di 5.000 euro per comprare queste protezioni minime che sono le mascherine, i guantini, eccetera. Capisco che la situazione sia drammatica. In conclusione, voi cosa proponete, a parte quello che ci ha detto, e cioè stabilire le regole, eccetera? Ci sarà però un giorno, un momento in cui si dovrà ripartire. D'altronde, cioè, questo virus non è colpa di nessuno. C'è. Voi come vorreste ripartire e quando? Ma guardi, noi potremmo riaprire anche domani con la certezza di regole che salvaguardino la nostra integrità sia morale che penale. Questo è il dato di fondo. Il rischio di impresa penale, però se ci sono delle regole, se lei come ristoratore le rispetta, se io vengo a cena da lei e poi mi ammalo, non è che posso dire perché è successo nel ristorante del signor Zini, se lei ha rispettato le regole, no? Certo, quindi non è che può, non è che può fare le cause e ritenerlo responsabile. Sì, certo. Se le so, se non ci sono e sono interpretazioni, così come è stata per esempio la multa sul distanziamento, sull'assembramento, se non ci sono io non posso saperle. Sì, è chiaro, è un po' all'italiana. Ci sarà l'avvocato che troverà il cavillo per farle causa. Questo è il senso, ha capito quello che vogliamo dire. Noi vogliamo fare l'imprenditore in maniera seria. Senta, ma non è che stando lì rischiate anche oggi una multa, no? Ma no, questo no. Ho sentito le sirene sottofondo. No, l'ambulanza che c'è. C'è molta gente in giro che corre senza mascherine. Lei ce lo conferma che anche oggi è così. Assolutamente sì, ma questo voglio dire, noi siamo solidari con gli agenti della polizia che hanno sanzionato noi e i ristoratori che stanno sanzionando probabilmente anche altre persone. E il problema anche qui è che della famosa norma si è deciso di riaprire dicendo non serve per tanti l'autocertificazione, sì. Non si sa quali sono gli assembramenti, però giustamente è interpretativa, allora, e quindi ognuno ha Alfredo fatto. Stia con noi, sentiamo Mariella da Firenze perché ci chiama, credo proprio sul settore della ristorazione, mi hanno detto. Mariella, buongiorno. Buongiorno. No, niente, la mia era soltanto, ribadisco che io 5 minuti alla radio mentre stava parlando proprio calabrese, il quale ha detto in Italia si sta a pensare a fare l'aperitivo, mentre invece in Cina hanno prima riaperto gli uffici più importanti e invece in Italia pensiamo a fare l'aperitivo. Beh no, calabrese, il problema dell'aperitivo è che questo comparto turistico, ristorazione, tutto l'indotto copre 7 milioni di lavoratori su 18 milioni in Italia. Questo è un dato che è stato dato ieri, quindi non è solo la voce. Sì, non c'è dubbio, però le ha viste le foto, le ha viste le foto a Milano, insomma, forse qualcuno ha un po' interpretato i liberi tutti in maniera un po' esagerata. Ecco, guardi qualche giornale. Sì, guardo anche qualche giornale, sicuramente, quello chiaramente al buon senso delle persone che chiaramente devono rispettare poi quelle che sono le regole date, però insomma, ecco, non è tanto solo la voce di fare l'aperitivo. La ringrazio allora. Grazie. Va bene, grazie Mariella. No, ma certamente il settore della ristorazione è fondamentale e sicuramente così deve ripartire con le regole. Alfredo Zini, grazie. Allora, voi state lì e vedremo come evolverà questo, come andrà a finire. Quando potremo verremo tutti al tronco a Milano pagando, ovviamente, lo dico agli ascoltatori, no? Perché sennò sembra che subito anche perché abbiamo bisogno di incassi, ecco, esatto, a maggior ragione le porto anche Leonardo Manera, che è uno molto molto esigente, inizia a dire il formaggio no, il tavolo questo no, mi deve spostare lì, è un rompiballe, insomma, uno di quelli che i ristoratori vorrebbero cacciare alla porta subito. Scherzo. No, ma guardi, grazie. Infatti questo è il tema, se mi dà 30 secondi, che noi abbiamo dietro una filiera importante dei produttori locali. Certo. Nei ristoranti ci sono 100 etichette di vino minimo, produttori di formaggi, di salumi eccetera, che in questo momento sono fermi e stanno soffrendo, che anche loro purtroppo non sanno le regole per come produrre, per come far arrivare i loro collaboratori a fare questi formaggi meravigliosi, questi salumi. Ecco, questo è il tema della sicurezza che viene prima di tutto. Noi chiediamo questo. Poi il rischio di impresa, come dicevo prima, ci sta, ci deve essere, se no saremo imprenditori. Io la ringrazio. Grazie. Alfredo Zini, grazie, porti solidarietà anche al collega Paolo Polli, che è lì che dorme e fa digiuno della fame, anche digiuno all'Arco della Pace. Andiamo a sentire la borsa. Uno, nessuno, 100 Milan. Se Milano e la Lombardia sono il centro dell'epidemia e comunque lì il contagio non si arresta, va chiusa la Lombardia. Chi se ne frega se la Lombardia è il motore d'Italia? Non puoi lasciare fermo tutto il resto dell'Italia. Chiudete la Lombardia. Milan, ma sono due mesi che lei ironizza sui provvedimenti del governo e sulle scelte delle varie commissioni tecniche e adesso rimprovera l'uomo della strada? Ha fatto l'uomo della strada per due mesi lei. Io ho rimproverato e ho criticato e ho detto e ribadisco che nella stragrande maggioranza gli italiani si sono comportati bene e lo ribadisco anche adesso, quindi non cambio idea. La stragrande maggioranza vuol dire che ci sono quelli che ieri erano sui navigli appiccicati saranno stati, so, 1000 su 60 milioni di italiani, quindi rimane l'idea che la stragrande maggioranza si è comportata bene, si comporta bene secondo le regole. Poi ci sono alcuni che invece, presi così dall'euforia evidentemente di poter andare a bersi un bel mojito, cosa che piace anche a me, ma probabilmente oggi vado anche a prenderlo dal mio amico al Tempio d'Oro che riapre qui in quartiere, andrò lì, me lo metterà nel bicchierino di carta, me ne vado via e basta. E però è arrivata mia figlia Angelica che forse vuole dire qualcosa al mondo, alla collettività. No, scuote la testa, neanche un saluto veloce, cara Angelica. Come andranno gli esami di terza media quest'anno? No comment. No comment. Sì. Ecco, questa risata è abbastanza emblematica. Vuoi salutare gli ascoltatori? Ciao! Ciao a tutti, anche da Angelica, ora torna pure a studiare. No. Che no, mi dice no, però articolava poi il pensiero. No, a studiare no, perché vieni, scusa, vieni qui, cosa succede? A studiare no, perché è finita la lezione. Ho l'intervallo. Ah, c'è l'intervallo, va bene. Allora, dopo l'intervallo torna a studiare. Così ti faccio vedere chi porta i pantaloni in casa. No, dicevo, quindi io da sempre sono stato a favore degli italiani a dire si sono comportati bene, lo ribadisco, ma d'altronde non lo dico io, l'hanno detto i numeri delle multe, che sono state percentualmente poche, meno di quello che mi sarei aspettato. Comunque vorrei sentire Massimiliano da Verona, credo, bello, stupendo, perché Laura Faggini mi mette le sigle come le targhe vecchie automobilistiche, VR, dunque VR è Verona, giusto Massimiliano? Stupendo. Sì, sono io, buongiorno. L'ho azzeccata, va bene, Verona, vai. Allora, io ho sentito parlare esercenti, gestori di locali che si pongono il problema della denuncia penale o quant'altro. Allora, sì. Giustamente, però basterebbe che lo Stato italiano dicesse sinteticamente: signori, non è perseguibile nessuno se tu ti becchi il coronavirus. Sei uscito di casa, rispetti le condizioni e indossi i DPI previsti dalle normative. Ok, vai al ristorante. Non puoi far causa al ristorante se ti sei però beccato se il ristorante non rispetta le regole, è come dire se se lei è un antipatico, se uno entra alle poste e si sloga una caviglia perché c'è una buca, può dire faccio causa alle poste, no? Cioè, se siamo maestri, sì, in Italia, non sì, in queste cose, però, quindi, allora lei come mi fa a giustificare che il coronavirus l'ha beccato all'interno del ristorante? Se all'interno del ristorante. No, non è che lo dico così, però dico: ho visto che il cameriere. Il cameriere non aveva la mascherina. Che ne so. No, per esempio, quelli sono i dispositivi. Attenzione, io ho detto che qualsiasi persona rispetti le regole. Cioè, il cameriere deve avere la sua mascherina, i suoi guanti. È ovvio che se io entro al ristorante, vedo che i camerieri girano senza guanti e senza mascherina, la prima cosa che faccio, esco. E faccio però anche una segnalazione, punto. La farei riflettere Massimiliano sul fatto che siamo un popolo di litigiosi. Secondo lei non ci sarebbe uno che dice il distanziamento non era di 1,80 m, ma secondo me di 1,72 m, dunque chiamo un avvocato, allora, faccio causa al locale. Allora, appunto per evitare questi litigi, io dico, tu non puoi far causa a nessuno per il coronavirus. Puoi fare osservazione se entrando in un locale non lo ritieni adeguato, ma non causa, e nello stesso tempo poi gli organi di controllo devono fare i controlli, punto. Certo. Chiuso l'argomento, certo, però non posso fare causa, se no devo essere io stesso consapevole che la situazione è questa ed è veramente drastica, però vado, verifico, esco, è come quello che entra alle poste e la buca non la vede, non so perché guarda per aria o quant'altro, però chi ha alzato la sala cinesca delle poste e ha visto la buca e non è intervenuto, il direttore di quell'ufficio, è il primo a controllare. Salutiamo ovviamente le poste, si stava facendo un esempio, adesso mi chiameranno le poste, ma noi non abbiamo buche, ma no, ho detto le poste, potevo dire una banca, insomma la prima cosa che mi è venuta in mente. Allora, grazie Massimiliano, beh saranno contenti i ristoratori, l'appoggeranno in questa idea di dire ok, puoi segnalare ma non certo fare causa, basterebbe mettere questo tipo di rapporto. Mi dicono basta che porti al bar un bicchiere di vetro da casa, così te lo mettono il bicchiere di vetro, il mojito è migliore, lo so, ma devo informarmi dal mio amico Maurizio del tempo d'oro se si possa fare questa. Poi in genere sono io che gli rubavo i bicchieri belli, questi dicevo bello questo bicchiere me lo tengo, e uscivo magari con un bicchiere. Mi piacevano soprattutto quelli color rame con il manico tipo vecchia birreria tedesca, no? Una volta ho detto bello questo te lo rubo, quindi ho pagato il cocktail, però mi sono tenuto anche il bicchiere. Lui mi ha maledetto a lungo, non mi sono fatto vedere per un po', poi dopo tutto è passato e sono tornato a bere lì al Tempio d'Oro. Sebastiano da Vicenza, buongiorno Sebastiano. Grazie Milan. Pronto? Eccoci. Sì, prego. Sì. Bene. Ecco per qua. Sì, io sono medico, Milan. Volevo dire questo. Milan, io ho un amico di quasi mia età, 60 anni, è morto di coronavirus settimana scorsa. È mio paesano, lui è nigeriano, ma siamo venuti qua tutti insieme a studiare. Nigeriano, tu sei nigeriano di origine, ok. Lui ha un'attività ristoratore qua a Vicenza, grande anche. Purtroppo lui all'inizio non teneva con queste qua, poteva avere il coronavirus all'inizio, aveva febbre. Febbre normale, diciamo 36, 32, 36, che non ha proprio febbre per dirti, no? Ma coronavirus, certo. Non è che ha febbre. Alla però fine, ha sottovalutato questa febbre. Proprio così. È andata, broncopolmonite bilaterale, intubato un mese in rianimazione. Ha fatto anche tanto. Allora, quello che vuol dire questo, la gente, anche il ristoratore, mi capisco, ma purtroppo, un altro esempio che vi faccio, ieri c'è un ragazzo che è venuto a fare la visita cardiologica da me, perché lui deve fare un intervento chirurgico, gli hanno fatto il tampone, è positivo, ma lì non ha nessun sintomo, lì girava anche, è venuto anche senza maschera, hai capito? E questo Sebastiano, questo è il grande tema del fatto di fare i tamponi a tutti, di fare i tamponi a tutti. Se loro vogliono si fa un tipo drive-in, quello che si fanno in America, fai il drive-in, oppure si fa la selezione, ogni famiglia, si fa il tampone ogni famiglia, una persona, si fa il comune, si può anche fare, le medicine di base, si fa anche da ambulatore, un kit normale. Ma infatti Sebastiano, io non capisco una cosa, Sebastiano, grazie per questo, mi dispiace per l'amico, però Sebastiano, nigeriano di origine e medico, ci ricorda l'importanza di non sottovalutare questi effetti, anche sulla questione dei tamponi. Leggevo oggi Davide Milosa sul Fatto Quotidiano, dunque la Lombardia, sappiamo ormai, lo sanno anche i Muri, è la regione più colpita. E secondo la Fondazione Gimbe, che è una fondazione che è molto autorevole, fa molti studi su quello che succede a livello medico in Italia, con 79 tamponi di media la Lombardia è penultima come regione di tamponi. Io non lo dico, non voglio fare polemiche, non lo so, però dico, mi stona questo dato, ma come? La Lombardia, che è la più colpita, dovrebbero essere stati già fatti i tamponi a tutti. Lo dico, non sarà facile, non ci saranno i tamponi, costeranno fare i tamponi, poi c'è la struttura che li deve analizzare. Cioè, capisco tutte le difficoltà, non ho la soluzione, capisco tutte le difficoltà, però accidenti, cioè dovrebbero essere fatti i tamponi a tutti. Come ha detto Sebastiano, ci sono anche strutture in America dove si fa, sembra una ridicolizzazione, il drive-in, lo chiamano drive-thru, cioè insomma, vai lì in macchina, non scendi neanche dalla macchina, ti fanno il tampone, grazie, arrivederci, nel giro di due giorni le facciamo sapere il risultato. Almeno sappiamo quanti sono asintomatici, quanti sono i malati che appunto non lo sanno, come quello che è andato a fare la visita da Sebastiano, gli ha fatto il tampone, è positivo, ma lui non aveva sintomi, ho capito, però almeno sappiamo che è positivo. Comunque, grazie, andiamo al traffico, poi Angelo da Roma. 1, nessuno, 100 Milan. Beh, personalmente mi spiace, ma io al bar, al ristorante servito da personale con guanti e mascherine non ci vado, punto e basta. Il migliore è stato Donald Trump, sempre coerente, mai una dichiarazione fuori posto, sempre la stessa testa bassa a lavorare, ha sempre sostenuto la stessa tesi, non ha mai cambiato idea. Caro Milan, allora ha ragione chi dice che sei prono al sistema. Tu hai detto che non sai da dove arriva il coronavirus. Beh, insomma, made in China. Ah no, no, è chiaro che arriva dalla Cina, anche per me arriva dalla Cina, anche per tutti arriva dalla Cina. Cos'è, sono prono al sistema? Ragazzi, ma non lo so, dai, guarda, alzate, alzo le mani, caro ascoltatore, sparami diritto al petto. Angelo da Roma, buongiorno Angelo. Sì, buongiorno, buongiorno a voi tutti. Allora, in qualche occasione per salutare il dottor Calabresi, io sono un operatore Che di non polizia. C'è però adesso. Li porterò i suoi saluti. Sì, marginalmente lo conosco in quanto lui è soggetto o è stato soggetto a un dispositivo di sicurezza per motivi appunto di polizia, sì, certo. Si ricorda bene. Certo. Vabbè, niente, io soltanto fa presente una cosa, che in tutto questo apocalittico scenario di gente che va fallita, di gente che non arriva a pagare i propri dipendenti, bisogna comunque tener conto anche di chi ha dichiarato perdite mensili pari agli introiti prima del coronavirus praticamente. Cioè questa gente, io spero per loro che l'abbiano messo da parte questi soldi, abbiano fatto come le cicale, ne attingano anche a questi fondi, chiamiamoli neri, per tirare avanti. Lei dice che attraverso l'analisi delle dichiarazioni dei redditi, con un'attenzione certosina, si potrebbe sapere anche chi evidentemente ha dei fondi da parte che non aveva dichiarato, perché sennò dice come fa a vivere, Gente, ristoratori che dichiarano perdite mensili pari neanche alla loro dichiarazione dei redditi precedente, dove si dice di aver guadagnato nettamente tot euro l'anno. Sono cose ridicole, ci sono congruenze elefantia, che insomma No, certo, le incongruenze, insomma, ad andare a controllare. Angelo, è interessante come analisi, ma io la ringrazio, voglio concludere questa puntata perché Leonardo Manera, che non è qui fisicamente, qualcosa ci ha lasciato e ci ha mandato il mitico clown Neronello per una favola finale per concludere la settimana. Vai. Cari bambini, ecco la favola del clown Neronello. Iuppa! Una sera un povero boscaiolo confidò a sua moglie che l'indomani avrebbe abbandonato i loro 7 figli nel bosco perché non aveva più denaro per mantenerli. Pollicino, il più piccolo e furbo dei 7 fratelli, udì quelle parole e l'indomani, mentre passeggiava nel bosco con il babbo e i fratelli, fece cadere ogni tanto delle briciole dal suo panno. Verso il tramonto i fanciulli si accorsero che il padre era scomparso e si spaventarono, ma Pollicino li rincuorò, sicuro di ritrovare la via del ritorno grazie alle briciole. Ma Pollicino non sapeva che proprio da quel sentiero era passato un giovane di nome Ortodonzio, così chiamato per la sua dentatura complessa, che, affamato, aveva notato le briciole di pane e le aveva mangiate. «Sono proprio saporite queste briciole!» esclamò Ortodonzio mentre golosamente finivano nella sua bocca. Ma mentre si chinava per raccogliere le briciole, notò un tesoro in fondo a una buca e divenne ricchissimo. Era ormai notte e Pollicino guidò i suoi fratelli affamati e spaventati verso una luce lontana. Giunsero così a una casetta. Era la casetta dei 7 nani. Lì incontrarono Biancaneve, che li accolse, ma poi uno alla volta rientrarono anche i 7 nani, che dissero a Biancaneve: «Uè, non possiamo sfamare 15 persone, questa casa non è un albergo!» Decisero allora tutti insieme che l'unico modo per sopravvivere era andare nel paese dei balocchi, dove si vociferava che la vita fosse più semplice. Arrivarono là, nel paese dei balocchi, ma dopo pochi giorni vennero tutti trasformati in asinelli, tranne Biancaneve, che per la stanchezza si era addormentata nel bosco prima di giungere alla meta. Ortodonzio, nel frattempo ormai straricco, durante una gita nel bosco vide Biancaneve che dormiva. pensando che fosse la bella addormentata, la baciò. Biancaneve si svegliò e disse: «Oh principe, siete voi?» E Ortodonzio rispose: «Sì, sono proprio io e sono qui per renderti felice, sono un vero principe». Biancaneve e Ortodonzio si sposarono e andarono in viaggio di nozze in crociera, dove in mezzo al mare videro i sette nani e Pollicino e i suoi fratelli che erano stati sputati fuori dalla balena ed erano tornati come prima. Li raccolsero. Ortodonzio allora mise sette nani a lavorare nella sua fabbrica di protesi odontoiatriche e riportò Pollicino e i suoi fratelli da mamma e papà, che ancora non avevano risolto i problemi economici. Insomma, tutto tornò come prima. I sette nani continuarono a lavorare. La famiglia di Pollicino continuò ad aver problemi economici. Biancaneve pensò di essere sposata con un principe che invece non era un principe. L'unico veramente felice fu Ortodonzio, perché casualmente nel bosco aveva trovato un tesoro. Qual è la morale della favola, cari bimbi? Se lavorate come i sette nani avrete una vita dura. Se siete poveri, probabilmente resterete tali. Se sognate l'amore con un principe, andrete incontro a grosse delusioni. L'unico modo per essere felici è avere un colpo di culo, proprio come capitò a Ortodonzio. Va bene, le favole del clown Neronello tutte rivisitate in chiave moderna. Con questa favola chiudiamo, un grande abbraccio ovviamente al clown Neronello, chiudiamo questa settimana di Uno Nessuno 100 Milan, ringrazio tutti, scriveteci a 100milan@radio24.it e ci troviamo lunedì. Nessuno, 100 Milan.